Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Dal fondo dello specchio incorniciato d'oro sbiadito, nella calda penombra filtrata dalla tenda del ponte, mi venne l'immagine della mia faccia appoggiata tra le mani e restituì lo sguardo a me stesso nel completo distacco della distanza, più con curiosità che con qualsiasi altro sentimento, eccetto un po' di simpatia per quell'ultimo esponente di ciò che in tutto e per tutto era una dinastia. Non per continuità di sangue, certo, ma di esperienza, di preparazione, di particolare concetto del dovere, di benedetta semplicità nel suo modo tradizionale di considerare la vita. Sentì che quell'uomo, tranquillamente intento a fissarmi, e che io stavo osservando come se fosse me stesso e nel medesimo istante un essere diverso, non era precisamente una figura isolata. Aveva posto in una schiera di uomini che egli non conosceva, di cui nulla sapeva, ma che erano foggiati dalle stesse influenze e le cui anime, nei confronti del lavoro con cui umilmente si guadagnavano da vivere, non avevano segreti per lui. Ebbe improvvisamente la sensazione che nella saletta c'era un altro uomo, in piedi un po' in disparte, intento a guardarmi. Il primo ufficiale. I suoi lunghi baffi rossi ne caratterizzavano la fisionomia, che mi sembrò aggressiva, ma, strano a dirsi, in modo spettrale. Da quanto stava lì ad osservarmi, a soppesarmi nel mio indifeso stato di sogno ad occhi aperti? Il mio disappunto sarebbe stato maggiore se, avendo di fronte l'orologio inserito in cima alla cornice dello specchio, non avessi notato che la lancetta dei minuti non si era quasi mossa. Mi trovavo in quella cabina tutt'al più da 2 minuti, diciamo pure 3. Perciò non poteva essere rimasto ad osservarmi che per una frazione di minuto, fortunatamente. Non di meno, deplorai la circostanza. Ma non lasciai trapelare nulla nell'alzarmi senza fretta, bisognava che fosse fatto senza fretta, e nel salutarlo in modo assolutamente amichevole. Nel suo atteggiamento c'era un che di riluttante e di guardingo al tempo stesso. Il suo nome era Burns. Uscimmo dalla saletta e insieme facemmo il giro della nave. In piena luce la sua faccia appariva stanca, emaciata, quasi sparuta. Mi feci un certo scrupolo di guardarlo troppo spesso. Egli invece non mi staccava gli occhi di dosso. Erano verdastri e avevano un'espressione di attesa. A tutte le mie domande rispondeva con sufficiente prontezza, ma il mio orecchio credeva di cogliere una sfumatura di malavoglia. Il secondo ufficiale, con 3 o 4 uomini d'equipaggio, era occupato a prua. Il primo ufficiale me ne disse il nome ed io, nel passare, gli feci un cenno di saluto col capo. Era molto giovane. Mi fece un po' l'effetto di un principiante. Tornati a basso, mi sedetti all'estremità di un profondo divanetto circolare, o meglio semi-ovale, tappezzato di vellutino rosso. Occupava il lato poppiero della saletta da parte a parte. Il signor Burns, invitato ad accomodarsi, si lasciò cadere in una delle poltroncine girevoli che stavano intorno alla tavola e continuò a tenermi gli occhi addosso con immutata insistenza e con quella strana aria come se gli sembrasse tutta una finzione e si aspettasse di vedermi alzare, scoppiare a ridere, dargli una manata sulla spalla e sparire dalla saletta. C'era in tale situazione una curiosa tensione che cominciava a darmi fastidio. cercai di reagire a quella vaga sensazione. È solo colpa della mia inesperienza, pensai. Di fronte a quell'uomo, che giudicai più anziano di me di vari anni, ebbi coscienza di ciò che mi ero già lasciato alle spalle, la mia giovinezza. E non era davvero gran conforto. La giovinezza è una bella cosa, una potente forza, finché non ci si pensa. Sentii che cominciavo ad essere cosciente di me stesso. Quasi mio malgrado assunsi un'aria rabbuiata e grave e dissi: «Vedo che avete tenuto la nave molto in ordine, signor Burns». Avevo appena pronunciato tali parole che mi chiesi con rabbia perché diavolo le avevo dette. Per tutta risposta il signor Burns strizzò gli occhi. Che cosa mai poteva significare? Ripiegai su una domanda che mi stava fissa in mente da un pezzo, la domanda più naturale sulle labbra di un marinaio che a qualsiasi titolo prenda in barco su una nave. La pronunciai, maledizione a quella fiducia in me stesso, in tono allegro, dégagé. «Suppongo che sia capace di camminare, ma in che maniera?» Ora, a una domanda simile si poteva rispondere di regola o con accento mortificato di giustificazione o con orgoglio palesemente trattenuto in un tono come «non lo dico per vanto, ma vedrete». Altri marinai si sarebbero mostrati rudemente espliciti, una bestiaccia pigra o apertamente entusiasti. «Vola!» Due sole alternative, pur con quattro modi di fare. Ma il signor Burns ne trovò un'altra, tutta sua, che se non altro aveva il merito di risparmiargli del tutto il fiato. Ancora una volta non disse nulla. Si limitò ad accigliarsi. Ed era un cipiglio rabbioso. Aspettai. Non ne uscì altro. «Che cosa c'è? Non lo sapete? Dopo quasi 2 anni che siete su questa nave?» gli chiesi brusco. Per un attimo parve sconcertato, come se solo in quell'istante scoprisse la mia presenza. Ma gli passò subito. Assunse un'aria assente, però pensò bene di dire qualcosa. Disse che a una nave, come all'uomo, occorreva l'occasione per mostrare il meglio di sé, e che quella nave non ne aveva avuto l'occasione da quando egli era a bordo, almeno per quanto ricordava. L'ultimo capitano si interruppe. «Possibile che abbia avuto tanta sfortuna?» chiesi francamente incredulo. Il signor Burns distolse gli occhi da me. «No, il defunto capitano non era sfortunato. Sarebbe stato inesatto dirlo, ma non aveva l'aria di voler fare uso della propria fortuna». Il signor Burns, uomo dagli umori enigmatici, fece tale dichiarazione con viso impassibile e fissando ostinatamente il rivestimento dell'agghiaccio. La dichiarazione in se stessa era oscuramente allusiva. Chiesi tranquillamente: «Dove è morto?» «In questa saletta, esattamente dove state seduto adesso», rispose il signor Burns. Trattenni lo sciocco impulso di saltare in piedi. Ma tutto sommato fu un sollievo sapere che non era morto nel letto che ora sarebbe stato il mio. Feci notare al primo ufficiale che in realtà volevo sapere dove aveva sepolto il suo defunto capitano. «All'ingresso del golfo», disse il signor Burns. «Tomba spaziosa». Risposta sufficiente. Ma l'ufficiale, con palese sforzo per superare dentro di sé qualcosa, come una strana riluttanza a credere nel mio avvento, in quanto fatto irrevocabile comunque, non si fermò a questo, anche se a dire il vero l'avrebbe forse desiderato. A titolo di compromesso con i propri sentimenti, credo, continuò tenacemente a rivolgersi al rivestimento dell'acchiaccio, sicché ai miei occhi appariva come uno che facesse un soliloquio, comunque un po' inconsciamente. Raccontò che ai 7 colpi della guardia del mattino aveva radunato gli uomini sul cassero e aveva detto loro che avrebbero fatto bene a scendere a basso per dare l'addio al capitano. Queste parole, fornite controvoglia come a un intruso, mi bastarono ad evocare vivamente la strana cerimonia. I marinai scalzi, a capo scoperto, che si affollavano timidamente in quella saletta, un gruppetto di persone pigiate contro quella credenza, più impacciate che commosse, camicie aperte sui petti abbronzati, volti segnati dalle intemperie e tutti con gli occhi fissi sul morente e con una stessa espressione di gravità e di attesa. «Era in sé?» chiesi. Non parlò, ma mosse gli occhi e li guardò, disse il primo ufficiale. Dopo un momento il signor Burns aveva fatto cenno all'equipaggio di andarsene, trattenendo però i due marinai più anziani perché rimanessero col capitano mentre egli saliva sul ponte col sestante per prendere il sole. Si avvicinava mezzogiorno ed egli ci teneva ad ottenere una buona osservazione della latitudine. Tornato a basso, per rimettere a posto il sestante, trovò che i due uomini si erano ritirati fuori il corridoio. Attraverso la porta aperta poté vedere il capitano abbandonato sui cuscini. Se n'era andato, mentre il signor Burns eseguiva la sua osservazione, quasi a mezzogiorno preciso. Non si era quasi nemmeno mosso. Il signor Burns sospirò. Mi lanciò un'occhiata interrogativa che equivaleva a dirmi «Non ve ne andate ancora?» e poi riportò i suoi pensieri dal nuovo capitano a quello vecchio, il quale, essendo morto, non aveva alcuna autorità, non ostacolava la strada a nessuno ed era più facile da trattare. Il signor Burns ne trattò piuttosto a lungo. Era un uomo strano, di circa 65 anni, brizzolato, espressione dura, ostinato e poco comunicativo. Teneva la nave a oziare in mare per imperscrutabili motivi. Di notte a volte saliva sul ponte, faceva serrare qualche vela, Dio solo sa perché o a quale scopo, poi tornava a basso, si chiudeva nella sua cabina e suonava il violino per ore, fino all'alba magari. In effetti, di giorno o di notte, trascorreva la maggior parte del tempo a suonare il violino, ogni volta che gliene saltava il ticchio, e fortissimo per giunta. Finché un giorno il signor Burns, fattosi coraggio, si lagnò seriamente col capitano. Né lui né il secondo ufficiale riuscivano a chiudere occhio durante le loro guardie franche a causa di quel rumore, e allora come pretendere che restassero svegli in servizio? La risposta di quell'uomo intransigente fu che se lui e il secondo ufficiale non gradivano quel rumore, non avevano che da far fagotto e andarsene fuori bordo. Tale alternativa veniva posta quando la nave stava a 600 miglia dalla terra più vicina. A questo punto il signor Burns mi guardò con un'aria di curiosità. Io cominciavo a pensare che il mio predecessore fosse un vecchio notevolmente bizzarro, ma mi toccò udire cose ancora più strane. Venne fuori che quell'intransigente, arcigno, rude, taciturno marinaio di 65 anni, conciato dal vento e dal sale marino, era dedito non soltanto all'arte, ma anche all'amore. Ad Haiphong, dove erano arrivati dopo una serie di peregrinazioni senza costrutto, durante le quali la nave si stava per perdere a due riprese, egli, secondo l'espressione usata dal signor Burns, si era impegolato con una donna. Di tale relazione il signor Burns non aveva avuto personale conoscenza, ma ne esisteva una prova concreta, sottospecie di una fotografia eseguita da Haiphong. Il signor Burns l'aveva trovata in uno dei cassetti nella stanza del capitano. A suo tempo vidi anch'io quel sorprendente documento umano e in seguito lo gettai pure in mare. Egli era lì, seduto, con le mani posate sulle ginocchia, stempiato, tarchiato, grigio, irsuto, con un che dorso selvatico. E accanto gli torreggiava una matura, spaventosa femmina bianca, con nari rapaci e con un volgare sguardo fatale negli occhi enormi. Era travestita con un buffo e volgare costume mezzo orientale. Somigliava a una medium di infimo ordine o a una di quelle donne che dicono la fortuna con le carte per pochi soldi. Eppure faceva colpo. Una strega di mestiere, strega da Angiporto. Era una cosa incomprensibile. Era terribile pensare che quella donna avesse costituito l'ultimo bagliore della passione per quell'anima violenta che ancora pareva aleggiare sul volto sardonico e selvaggio del vecchio marinaio. Notai comunque che ella reggeva uno strumento musicale, una chitarra o un mandolino, in una mano. Forse il segreto del suo sortileggio stava lì. Per il signor Burns, quella fotografia spiegava il perché la nave scarica era stata tenuta a soffocare per 3 settimane all'ancora in un porto caldo e pestilenziale senza un soffio d'aria. Stavano lì a boccheggiare. Il capitano, facendosi brevemente rivedere ogni tanto, borbottava al signor Burns inverosimili storie sul fatto che aspettava delle lettere. Improvvisamente, dopo essere sparito per 1 settimana, venne a bordo nel cuore della notte e alle prime luci dell'alba fece uscire la nave al largo. Alla luce del giorno apparve stravolto e malato. Ci misero 2 giorni solo per perdere di vista la terra e non si sa come urtarono leggermente uno scoglio. Comunque non si produssero falle e il capitano, brontolando un non importa, comunicò al signor Burns di avere deciso di portare la nave ad Hong Kong e lì farla entrare in bacino di carenaggio. Ciò gettò il signor Burns nella disperazione. Perché in vero, bordeggiare fino ad Hong Kong contro un violento monsone, con una nave insufficientemente zavorrata e con una scorta d'acqua incompleta, era un progetto insano. Ma il capitano grugnì perentoriamente: «Tenersi alla via!» E il signor Burns, sgomento e furioso, si tenne alla via e non mollò, strappando vele, sforzando l'alberatura, sfiancando l'equipaggio, reso quasi pazzo dall'assoluta persuasione che era un tentativo impossibile e destinato a concludersi con una catastrofe. Intanto il capitano, chiuso nel suo alloggio e incuneato in un angolo del divanetto per resistere al frenetico rimbalzare della nave, suonava il violino, o comunque ne traeva continui rumori. Se appariva in coperta, non parlava e non sempre rispondeva a chi gli parlava. Si vedeva chiaramente che in un modo misterioso era malato e che cominciava a crollare. Col passare dei giorni i suoni del violino si fecero sempre meno forti, finché appena un debole raschiare giungeva all'orecchio del signor Burns, ritto ad ascoltare nella saletta accanto alla porta dell'alloggio del capitano. Al colmo della disperazione, un pomeriggio irruppe in quell'alloggio e fece una tale scenata, strappandosi i capelli e urlando orribili imprecazioni, che vinse lo sdegnoso umore del malato. Le casse d'acqua si stavano svuotando. Non avevano guadagnato 50 miglia in 2 settimane. Mai la nave avrebbe raggiunto Hong Kong. Equivaleva a lottare disperatamente per portare nave e uomini alla distruzione. Era evidente, non c'era da discuterne. Il signor Burns, lasciato ogni ritegno, avvicinò la sua faccia a quella del capitano e letteralmente gridò: «Voi, capitano, state per andarvene da questo mondo, ma non posso aspettare che siate morto per mettere la barra al vento. Dovete farlo voi, dovete farlo adesso!» L'uomo sdraiato ringhiò con grande sprezzo: «Dunque sto per andarmene da questo mondo, è così?» «Sì, capitano. Non vi rimangono molti giorni», disse il signor Burns, calmandosi. «Ve lo si vede in faccia. In faccia, eh? Ebbene, mettete la barra al vento e Dio vi maledica». Burns volò sul ponte, governò mollando in poppa, poi tornò a basso, composto ma deciso. «Ho fatto rotta su Pulo Condor, capitano», disse. «Quando lo avvisteremo, se siete ancora con noi, mi direte in quale porto desiderate che io conduca la nave e io lo farò». Il vecchio gli diede uno sguardo pieno di astio feroce e disse queste atroci parole con voce implacabile, lenta: «Se il mio desiderio si avverasse, né la nave né uno solo di voi raggiungerebbe mai un porto, e spero che non lo raggiungerete». Il signor Burns era profondamente turbato. Credo realmente che sul momento si fosse spaventato. Tuttavia riuscì a tirar fuori una risata così efficace che ora fu il vecchio a spaventarsi. Si rannicchiò su se stesso e gli volse le spalle. E in quel momento aveva la testa a posto, mi rassicurò il signor Burns con eccitazione. Sapeva bene ciò che diceva, dalla prima all'ultima parola. Questo fu in pratica l'ultimo discorso del capitano defunto. Dalle sue labbra in seguito uscirono solo frasi sconnesse. Quella notte adoperò l'ultimo residuo di forza per buttare in mare il suo violino. Nessuno in realtà lo vide in quell'atto, ma dopo la sua morte il signor Burns non riuscì a ritrovare lo strumento da nessuna parte. C'era in Bella Vista la custodia vuota, ma il violino certamente sulla nave non c'era. E dove poteva essere finito, se non in mare? «Buttare in mare il suo violino!» esclamai. «Proprio così!» gridò con eccitazione il signor Burns. «E sono convinto che avrebbe tentato di portare la nave a fondo con sé, qualora fosse stato umanamente possibile. Non voleva che rivedesse mai più il suo porto. Non scriveva agli armatori, né mai scrisse nemmeno alla vecchia moglie. Non ne aveva la minima intenzione. Aveva preso la decisione di andare alla deriva, lontano da tutto». Ecco di che cosa si trattava. Non gli importava di affari, noli o traversate, di nulla. Intendeva andarsene vagando per il mondo fino a perdere la nave con tutto l'equipaggio. Il signor Burns aveva l'aria di un uomo scampato a un gran pericolo. Poco mancava che esclamasse «se non ci fossi stato io». E la trasparente innocenza dei suoi occhi sdegnati era bizzarramente sottolineata dall'arroganza del suo paio di baffi che egli si mise ad arricciare e come a stiracchiare orizzontalmente. Mi sarebbe venuto da sorridere se non fossi stato occupato nelle mie proprie sensazioni, che non erano certo quelle del signor Burns. Ero già l'uomo che comandava. Le mie sensazioni non potevano essere simili a quelle di nessun altro a bordo. In quella comunità apparteneva a una categoria a sé stante, come un re nel proprio paese. Intendo dire un re per diritto ereditario, non un semplice capo di stato elettivo. Mi aveva mandato lì a governare un intervento altrettanto lontano dal popolo e per esso altrettanto imperscrutabile che la grazia di Dio. E come il membro di una dinastia, sentendo un vincolo quasi mistico con i defunti, ero profondamente scandalizzato dal mio immediato predecessore. Sotto ogni profilo essenziale, salvo l'età, quell'uomo era stato uno come me. Eppure la conclusione della sua vita era un atto di totale slealtà, il tradimento di una tradizione che mi sembrava più imperiosa di qualsiasi altra norma sulla terra. Dunque anche in mare un uomo poteva essere vittima degli spiriti del male. Mi sentii alitare sul volto le sconosciute potenze che foggiano i nostri destini.